Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. C'è un grande serbatoio di efficienza energetica non sfruttata in Italia, rappresentato da quanto si potrebbe fare se solo iniziassero a diffondersi a livello condominiale quelli che vengono chiamati sistemi di microcogenerazione. Come ormai molti ascoltatori di Smart City sanno bene, la cogenerazione consiste nella produzione contemporanea di calore ed energia elettrica. Per esempio, in un condominio la tradizionale caldaia può essere sostituita almeno parzialmente da un motore simile a quello delle automobili che, collegato a un generatore, produce elettricità, mentre tutto il calore sviluppato dal motore, che è una buona parte dell'energia sprigionata dalla combustione, viene usato per produrre acqua calda sanitaria. Ebbene, questo modo di utilizzare l'energia, che evita che il calore normalmente connesso alla produzione di energia elettrica venga sprecato, come invece accade nella maggior parte delle centrali termoelettriche, permette dei risparmi energetici consistenti, dell'ordine, per capirsi, del 30, anche 40% in qualche caso, ma è ancora molto poco diffuso in Italia. Per dare una spinta a questo tipo di soluzioni, Asso Rinnovabili, che unisce appunto i produttori di energie rinnovabili italiani, ha elaborato, con l'aiuto dell'Istituto Ricerche Strategiche Altesis, una proposta di cui parleremo questa sera con il presidente di Asso Rinnovabili, Agostino Rebaudengo. Buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, senta Rebaudengo, intanto quali sono le ragioni che finora hanno rallentato la diffusione della microcogenerazione in Italia? Ma diciamo ce ne sono due. La prima è un problema di tipo, ahimè, burocratico. Cioè, per montare un microcogeneratore c'è ancora la necessità di fare un po' troppa carta, per dirla in slang. La seconda è un problema, diciamo, di cultura. Nonostante che nel nostro paese si sia brevettato primi al mondo un microcogeneratore, in realtà in altri paesi come la Germania, l'Inghilterra, il Giappone, la tecnologia si è sviluppata poi nel tempo e si è sviluppato anche prima il mercato. Ecco, forse un'altra ragione non da poco è che oggi l'energia elettrica prodotta da un sistema del genere potrebbe essere utilizzata per le parti comuni di un condominio, ma non dai singoli appartamenti. Questo è un tema di apertura dei cosiddetti sistemi efficienti di utenza che è rilevante in quest'ambito, sbaglio? Questo è un altro problema molto, molto importante per, diciamo, l'applicazione nei condomini, e che ovviamente è un limite forte in genere alla generazione distribuita di calore e elettricità quando sono puliti. Senta Rebaudengo, allora veniamo alla vostra proposta, quella che avete messo a punto anche insieme all'Istituto di Ricerche Altesis. In cosa consiste? Ma dunque, intanto l'idea di fare questo studio è nato dal problema che vede l'Italia peggio dei suoi partner europei in tema di inquinamento dell'aria. In questo appunto abbiamo chiesto quale sarebbe stato l'impatto di installare 1400 microcogeneratori nei condomini italiani. Avete fatto Italia, diciamo, una ipotesi, diciamo, di scuola, no? Questa di installare 1400 cogeneratori in altrettanti condomini italiani. Teniamo conto che i condomini italiani sono centinaia di migliaia, quindi un'ipotesi abbastanza conservativa, e di poter beneficiare per questo tipo di installazioni delle detrazioni fiscali del 65%, che voi proponete di estendere appunto anche ai microcogeneratori. Quindi il primo risultato, lei dice, è per la salute, al di là di quello economico. Esatto, il primo risultato è molto importante per la salute, perché avremmo, come dire, un'aria molto più pulita sia in termini di NOx che di polveri sottili. Peraltro il governo sembra essere attento, perché è allo studio un decreto, cosiddetto decreto caldaiette, che vorrebbe in qualche modo incentivare la sostituzione dell'attuale parco caldaie e caldaiette. Certo, con uno meno inquinante, lei dice che se passiamo direttamente ai sistemi di cogenerazione è pure meglio. Ecco, ma veniamo agli aspetti economici, perché anche questi non sono male. No, perché diciamo di fronte, diciamo, a una un'installazione di 1400 microcogeneratori in altrettanti condomini italiani, avremmo un beneficio per il sistema di 79 milioni di euro, che significa sostanzialmente che per ogni euro di minor gettito fiscale alla fine il sistema paese ha 1,8 euro di benefici, qui non sono conteggiati, diciamo, i benefici sulla salute che per prudenza, diciamo, non sono stati conteggiati. Ecco, insomma, è una cosa che si vede già in altri ambiti. A volte queste detrazioni fiscali fanno partire un settore che poi genera più, diciamo, introiti fiscali di quelli che è costato farlo partire. Va bene, grazie Rere Baudengo. Grazie. Va bene, ci fermiamo qui. Appuntamento a lunedì. Buona serata a voi tutti e buon fine settimana.